Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Alexander si era fatto ancora più serio e quasi scuro in viso, ma non accennò a interrompere Joseph. Quest'ultimo proseguì. È vero che nell'inviare la mia richiesta non speravo seriamente che venisse accolta e non avrei avuto molta gioia se lo fosse stata, ma d'altro canto è anche vero che non sarei stato disposto ad accettare un rifiuto come decisione superiore. Non disposto ad accettare un rifiuto della vostra autorità come decisione superiore. Dite, Magister, ho inteso bene? Lo interruppe il presidente, spiccando le parole. Ora doveva aver compreso tutta la gravità della situazione. Knecht fece un piccolo inchino. Sì, avete inteso bene. È vero che non potevo credere a un'evasione favorevole della mia domanda, ma ritenevo di doverla presentare per non venir meno all'ordine e alla forma. In tal modo offrivo, per così dire, alla venerata autorità il destro di sbrigare la cosa con riguardo. Nel caso non fosse stata favorevole a questa soluzione, ebbene sì, già allora ero risoluto a non lasciarmi tenere a bada e tacitare, ma ad agire. Ad agire come? Domandò Alexander con voce sommessa. Come mi prescrivono il cuore e la ragione. Ero risoluto a deporre la carica e ad iniziare un'attività fuori della Castalia, anche senza incarichi o permessi dell'autorità. Il direttore dell'ordine chiuse gli occhi e parve non ascoltasse più. Knecht comprese che stava compiendo l'esercizio col quale, in caso di improvviso pericolo o minaccia, i membri dell'ordine cercano di assicurarsi il dominio di sé e la tranquillità interiore. L'esercizio consiste nel fermare a lungo, per due volte, il respiro a polmoni vuoti. Finalmente, Alexander, con voce tranquilla, disse: «Ora credo di avervi compreso. Già da qualche tempo eravate stanco dell'ufficio o della Castalia, oppure assillato dal desiderio della vita mondana. Avete deciso di obbedire a questo impulso, piuttosto che alle norme e ai vostri doveri. Non avete sentito il bisogno di confidarvi con noi e di cercare consiglio e aiuto nell'ordine. Voi aspettate forse che io possa mai approvare il vostro contegno e i vostri progetti?» «Oh, non si tratta di approvare. Aspetto e spero che mi comprendiate e che, quando me ne andrò, mi rimanga un poco della vostra stima. È l'ultimo commiato che mi resta da prendere nella vostra provincia. Oggi stesso ho abbandonato per sempre Valsel e il villaggio dei giocatori.» Di nuovo, Alexander chiuse gli occhi per qualche secondo. Le comunicazioni di quell'uomo incomprensibile gli giungevano con troppa irruenza. «Per sempre. Non intendete dunque di riprendere più il vostro posto?» «Devo dire che in quanto a sorprese ci sapete fare. Una domanda, se è lecito. Vi considerate ancora maestro del gioco delle perle di vetro o no?» Knecht prese il cofanetto che aveva recato con sé e disse: «Lo sono stato fino a ieri. Oggi ritengo di essermene liberato, restituendovi i sigilli e le chiavi. Sono intatti, e anche nel villaggio dei giocatori, se vorrete controllare, regna l'ordine perfetto.» Il presidente si alzò adagio e apparve stanco, quasi improvvisamente invecchiato. «Volete avere la cortesia di lasciarmi tempo fino a domani per continuare il nostro discorso?» disse Alexander. «Sono a vostra completa disposizione. Da parecchi anni conoscete me e il rispetto che nutro per voi. Credetemi, nulla è mutato. Voi siete l'unica persona dalla quale prendo congedo prima di lasciare la provincia, e non solo perché siete il presidente dell'ordine. Come ho rimesso nelle vostre mani i sigilli e le chiavi, così spero che, quando avremo finito di parlare, mi scioglierete dal voto di membro dell'ordine.» Alexander lo guardò negli occhi con tristezza e represse un sospiro. «Ora lasciatemi solo, venerato collega. Mi avete recato abbastanza cure e sufficiente materia di riflessione per riempire una giornata. Continueremo domani. Ritornate circa un'ora prima di mezzogiorno.» Così dicendo, congedò il Magister. Il gesto cortese, pieno di rassegnazione e di gentilezza voluta, non più verso un collega ma già verso un estraneo, fece al Magister più male di tutte le sue parole. Il giorno seguente, un giovane famulo della foresteria accompagnò il Magister Knecht dal presidente e assistette al loro incontro. Pur essendo avvezzo alla vista di maestri della meditazione e della disciplina e a vivere in mezzo a loro, avvertì, nel contegno e nel saluto dei due venerabili, un che di particolare e di nuovo per lui, uno straordinario e sommo grado di raccoglimento e di serenità. I due uomini scomparvero nell'interno della casa, probabilmente nel gabinetto privato del maestro Alexander, e vi rimasero alcune ore senza che ad alcuno fosse lecito disturbarli. «Ieri mi avete sorpreso», incominciò il presidente, «e quasi sconcertato. Secondo la lettera della regola, avete il diritto di dare le dimissioni dalla carica e di uscire dall'ordine. Siete arrivato al punto da considerare molesta la vostra carica e da sentire la necessità di tentare la vita fuori, nel mondo. E se ora vi proponessi di arrischiare questo tentativo, non già conformemente alle vostre violente decisioni, ma poniamo in forma di una licenza, sia pure lunga, o addirittura indeterminata. La vostra richiesta mirava certo a qualcosa di simile. La vostra bontà è molto grande. Vi sono riconoscente, ma non posso accettare. Posso pregare di non insistere nella vostra benigna proposta, né in genere nel tentativo di farmi tentennare e tornare indietro. Sarebbe invano. Questa mia visita perderebbe per me ogni valore e ogni solennità se mi procurasse l'accettazione postuma, non più desiderata, della mia supplica. Da quando la inviai, non sono rimasto fermo. La via che ho presa è diventata tutto per me, la mia legge, la mia patria, il mio servizio. Con un sospiro, Alexander accennò che accettava e riprese a dire pazientemente. Supponiamo dunque che davvero non sia possibile indurvi a tornare sui vostri passi, che ad onta di ogni apparenza siate sordo a ogni autorità, a ogni ragione, a ogni benevolo richiamo. Siate uno che sia dominato dalla follia omicida o invaso dalla furia guerriera e non si possa tagliargli la strada. Rinuncerò dunque per ora al tentativo di influire su di voi e di farvi mutare opinione. Ma esponetemi allora che cosa siete venuto a dirmi. Narratemi la storia della vostra apostasia. Spiegatemi i fatti e le risoluzioni con le quali ci atterrite. Sia una confessione, sia una giustificazione o un'accusa. Vi ascolterò. Knecht accondiscese. Il pensiero che si possa anche essere stanchi della carica di magister e abbandonarla mi venne la prima volta pochi mesi dopo la mia nomina a maestro del gioco delle perle. Un giorno stavo leggendo un libretto di Ludwig Wassermaler, il mio celebre predecessore, dove, scorrendo l'anno ufficiale di mese in mese, dà al magister suggerimenti e consigli. Lessi dunque il suo invito a pensare per tempo al pubblico gioco delle perle dell'anno successivo e a intonarvisi col raccoglimento qualora non se ne avesse voglia e non venissero in mente idee nuove e trovate. Quando lessi questo suggerimento, sorrisi con la baldanza dei giovani alle preoccupazioni del vecchio che così aveva scritto, ma vi sentii come un eco di gravità e pericolo, come qualcosa di minaccioso e conturbante. Riflettendo, arrivai a questa decisione. Se dovesse venire il giorno in cui l'idea della prossima celebrazione del gioco mi ispirasse preoccupazione invece di gioia, angoscia invece d'orgoglio, anziché torturarmi con i nuovi festeggiamenti, mi ritirerei e restituirei le insegne all'autorità. Quella fu la prima volta che mi venne questo pensiero e devo dire che allora, mentre mi affaticavo per acquistare pratica dell'ufficio e procedevo a gonfie vele, non pensai proprio che anch'io potevo diventare un giorno vecchio e stanco del lavoro e della vita, che a un certo momento mi sarei trovato in imbarazzo a concepire nuove idee per il gioco delle perle. Comunque fosse, la decisione si venne formando in quel tempo. Allora mi conoscevate, forse, meglio di quanto io conoscessi me stesso. Eravate voi il mio consigliere e confessore nelle prime difficoltà del mio ufficio e soltanto da poco avevate lasciato Valzel. Alexander gli rivolse uno sguardo indagatore e disse: «Non ho avuto forse mai un incarico più bello. Allora ero contento di voi e di me stesso, come lo si è raramente. Se è vero che nella vita si paga per tutto ciò che ci piace, ecco che ora pago per l'orgoglio di allora». Knecht rispose con serenità: «Domine, non dovreste farvi di questi scrupoli, altrimenti vi dovrei rammentare certe ammonizioni che mi furono allora necessarie quando, essendo il magister più giovane, prendevo troppo sul serio il mio compito, con tutti i suoi obblighi e le sue responsabilità. Ma ritorniamo al racconto. Se fin dal principio del mio magistero ho potuto prendere quella decisione e se non l'ho dimenticata, ma solo ora sono sul punto di attuarla, dipende da una specie di vicenda psichica che mi capita ogni tanto e che io chiamo risveglio. No, non ho mai creduto a manifestazioni di un dio o di un demonio o di una verità assoluta. In siffatti momenti mi sembra davvero di essere stato immerso lungo tempo nel sonno e nel dormiveglia, ma di essere desto e lucido e ricettivo come non mai. In momenti di grande dolore o convulsione, anche nella storia, hanno la loro ineluttabilità e accendono sentimenti di angosciosa, immediata partecipazione. La conseguenza, poi, dello sconvolgimento può essere il bello, la luce, oppure la pazzia e la tenebra. In ogni caso, ciò che accade avrà un'apparenza di grandezza, di necessità e importanza, e si staccherà e distinguerà da ciò che accade tutti i giorni. Per anni ho diffidato e mi sono opposto al gioco delle perle, che pure da un pezzo avevo conosciuto come il frutto più prezioso e singolare della nostra provincia. Per anni ho dubitato e studiato finché la decisione fu matura e, nonostante tutto, mi decisi per il gioco. Lo feci appunto perché c'era in me lo stimolo a cercare il massimo di attuazione e a servire soltanto il più grande dei padroni. Capisco, disse Alexander. Ma per quanto ci guardi, e comunque voi lo presentiate, mi imbatto sempre nella medesima causa di tutte le vostre singolarità. Voi avete una stima eccessiva della vostra persona, o dipendete troppo da essa, che non è la stessa cosa come essere una grande personalità. Uno può essere per intelligenza, volontà e costanza un astro di prima grandezza, ma centrato così bene da girare col sistema del quale fa parte, senza alcun attrito o spreco di energia. Un altro possiede le stesse doti, o ne ha magari di più belle, ma l'asse del sistema non lo attraversa esattamente, ed egli spreca metà della sua energia in movimenti eccentrici che lo indeboliscono e turbano chi gli sta intorno. Knecht aveva ascoltato con attenzione, non senza un'ombra di tristezza sul volto. «Rispetto il vostro giudizio», continuò. «Non potevo aspettare che fosse diverso, ma lasciatemi raccontare ancora un poco. Dunque, diventai giocatore di perle e per parecchio tempo ebbi la convinzione di servire il più alto dei padroni. Il mio amico dei signori mi spiegò una volta con molta chiarezza quale sia stata un tempo la mia arroganza, la mia sufficienza, la mia alterigia di campione del gioco. Ma devo anche dirvi quale valore abbia avuto per me, dopo gli anni di scuola e il risveglio, la parola trascendere. La trovai, se non erro, durante la lettura di un filosofo illuminista, sotto l'influsso del maestro Thomas von der Trave, e da allora, allo stesso modo del risveglio, fu per me veramente una parola magica, esigente e incitante, consolatrice e piena di promesse. La mia vita, così all'incirca mi proposi, doveva essere un trascendere, un progredire di gradino in gradino, un attraversare e lasciarmi alle spalle spazio dopo spazio, come una musica suona un tema dopo l'altro, un tempo dopo l'altro, e se li lascia dietro, senza mai stancarsi o dormire, sempre desta, sempre presente, con tutte le sue parti. Thank you. La decisione in favore del gioco delle perle fu un gradino importante e non meno importante il primo sensibile inserimento nella gerarchia. Anche nella mia carica di magister mi è capitato di salire siffatti gradini. La cosa migliore recatami dall'ufficio fu la scoperta che non solo far musica e giocare alle perle sono attività gioiose, ma anche insegnare e meditare. Knecht fece una pausa per riposare, mentre il presidente osservava. Magister, voi mi sbalordite sempre più. Mi parlate della vostra vita e quasi soltanto di esperienze private, soggettive, dei desideri personali, di personali evoluzioni e scelte. Non sapevo davvero che un castalio della vostra levatura potesse vedere così se stesso e la propria vita. La sua voce aveva un tono tra il rimprovero e l'accoramento, sicché Knecht ne rimase addolorato, ma tosto si riprese ed esclamò: «Non tocca a me parlare del mio disbrigo degli affari, di come ho adempiuto i miei compiti, del mio valore o non valore in quanto castalio e magister. L'attività ufficiale, come tutta la parte esteriore della mia vita, sta davanti a voi aperta e controllabile. Non troverete granché da rimproverare, ma qui si tratta di tutt'altra cosa, di presentarvi la via che ho percorso da me e che ora mi ha fatto uscire da Valzel e domani mi porterà fuori della Castalia. Se mi era nota l'esistenza di un mondo fuori della nostra piccola provincia, lo dovetti non già ai miei studi, nei quali quel mondo si presentava soltanto come un remoto passato, ma in primo luogo al mio condiscepolo De Signori, che era un ospite esterno, e più tardi al mio soggiorno presso i padri Benedettini e a padre Jacobus. Ciò che quel mondo aveva visto coi miei occhi era ben poco, ma con l'aiuto di quell'uomo mi feci un'idea di quella che chiamiamo storia, e può darsi che già allora gettassi le basi di quell'isolamento nel quale caddi dopo il mio ritorno. Il mondo, come lo si vede in Castalia, è un che di arretrato e inferiore, disordine e brutalità, passione e distrazione, una cosa né bella né desiderabile. Il mondo, però, è infinitamente più grande e più ricco dell'idea che se ne può fare chi vive in Castalia. È tutto formazione, storia, tentativo, sempre nuovo inizio. È magari caotico, ma è anche patria e origine di tutte le sorti, le sollevazioni, le arti di ogni umanità. Ha prodotto le lingue, i popoli, gli stati, le civiltà, e anche noi, con la nostra Castalia, e sopravviverà quando tutto ciò sarà perito. Jacobus, il mio maestro, m'aveva ispirato per esso un affetto che andava sempre aumentando e cercando alimento, mentre in Castalia non c'era nulla che lo potesse nutrire, perché qui si era fuori del mondo, si era anzi in un mondo piccolo, perfetto, non più in divenire, non più crescente. Era compito mio allargare lentamente e scaldare la vita Castalia e il suo pensiero, senza rompere con la tradizione, farvi affluire sangue nuovo dal mondo e dalla storia. E un destino felice ha voluto che nel medesimo tempo, là fuori, un uomo di mondo sentisse la stessa cosa, pensasse allo stesso modo e sognasse un affratellamento tra la Castalia e il mondo. Costui era Plinio De Signori. Maestro Alexander torse un poco la bocca dicendo: «Già, dall'influsso di costui su di voi non mi sono mai aspettato molto di buono, come non me lo sono aspettato dal vostro mal riuscito protetto Tegularius. Sicché sarebbe stato De Signori a indurvi alla rottura con l'ordine.» «No, domine, egli mi ha soltanto aiutato, e in parte senza saperlo. Ha portato un po' d'aria nella mia solitudine. Per il tramite suo sono tornato in contatto col mondo esterno, e soltanto così mi fu possibile intendere e riconoscere di essere arrivato alla fine della mia carriera qua dentro, di aver perduto la vera gioia del mio lavoro, e che era ora di por fine al tormento. Un altro gradino era fatto, uno spazio attraversato, e questa volta lo spazio era la Castalia.» «Che modo di parlare!» osservò Alexander scuotendo il capo. «Come se la Castalia non avesse spazio abbastanza da occupare degnamente numerose persone per tutta la loro vita. Credete davvero di avere percorso e superato questo spazio?» Certamente no, esclamò subito Yusuf. Non ho mai pensato a una cosa simile. Quando dico di essere arrivato al limite di questo spazio, voglio dire soltanto che ciò che potevo dare come individuo e nella mia posizione è stato dato. Daniela Di Giusto ha letto Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.